avec des yeux d'opale, qui me fascinait, il y avait l'ovale de son visage pâle, de femme fatale qui me fut fatale, de femme fatale qui me fut fatale. Melog 2.0 di Gianluca Nicoletti. Chacun pour soi est reparti dans le tourbillon de la vie. Je l'ai revu un soir, aïe aïe aïe, ça fait déjà une femme. Questa mattina toccheremo un argomento molto spinoso. Questa mattina parleremo di fascismo. Ne parliamo perché domani è il 28 ottobre, tutti sanno che il 28 ottobre del 22 ci fu un evento che fu considerato l'apoteosi della rivoluzione fascista e l'inizio del regime fascista, la marcia su Roma. La marcia su Roma partì da Perugia la sera prima. Mussolini ci arrivò in treno a Roma più o meno, però entrarono a Roma e con una debolissima e labilissima resistenza da parte delle truppe del re, e insomma iniziò il fascismo, bene o male. Questo è sintetizzato in maniera molto sommaria quello che è appunto la storia. Non ci interessa parlare della marcia su Roma, perché secondo me è venuto il momento che anche il fascismo entri a pieno diritto nell'analisi storica concreta. Questa mattina ho in studio una persona che voi conoscete, perché più volte con lui abbiamo parlato di risorgimento. Ancora oggi parleremo di risorgimento, perché il fascismo, come abbiamo già detto, usurpò l'eredità del risorgimento. Il sangue dei martiri risorgimentali furono, diciamo, l'humus in cui crebbe poi la rivoluzione fascista, almeno dal loro punto di vista. Marco Pizzo, buongiorno. Buongiorno. Marco Pizzo, direttore del Museo Centrale Risorgimento di Roma. Perché questa mattina parliamo della marcia su Roma rischiando di essere fucilati all'uscita di questa trasmissione in quanto apologeti? Non vogliamo fare apologia, vogliamo colmare una lacuna. Non esiste in Italia un museo di storia nazionale con una sezione dedicata all'analisi storica del fascismo, o sbaglio? Esatto. È un grande rimosso della storiografia italiana. Esistono tanti musei storici del Risorgimento o della Resistenza, ma in Italia non esiste nessun museo che tratti del fascismo o che tratti della storiografia nazionale, proprio perché c'è una sorta di pudore nell'affrontare un periodo storico che oramai è del tutto e per tutto storia, che va visto e valutato. È comprensibile la damnatio memoriae, diciamo, dei primi anni del dopoguerra, in cui non erano ancora ben chiari gli equilibri, in cui ancora era possibile osservare dei fenomeni di rinascita o di ritorno o di nostalgia, che mi sembrano oggi abbastanza elaborati, abbastanza annullati. Nessuno oggi vorrebbe rimettersi la camicia nera a rivedere i fasci per le strade, o perlomeno chi lo vuole è ormai una organizzazione di tipo nostalgico romantico, fa parte come di vari club, le varie associazioni. Nessuno teme più di vedere il fascismo, teme magari di vedere un ritorno alla dittatura, un ritorno all'assolutismo, ma poco a che fare più con quel momento storico, che probabilmente meriterebbe di essere analizzato storicamente, non più attraverso l'emotività dei reduci, delle vittime o di coloro che prendono posizioni politiche nei confronti di quel periodo. Sì, infatti il problema è proprio questo, cioè dedicare una sezione di un museo, o addirittura un museo, o creare un museo storico nazionale, non significa fare apologia del fascismo, significa semplicemente mostrarlo, rappresentarlo. Non ha avuto questo pudore la Germania, in cui a Bonn c'è un bellissimo museo sulla storia della Germania, in cui viene trattato il nazismo, è stata fatta una bellissima mostra l'anno scorso su Hitler. Noi vedremmo sicuramente con un occhio un po' critico se ci fosse Roma invasa dai manifesti di una mostra su Mussolini. Ecco, per dimostrare che ciò non rappresenta una tendenza apologetica in Germania, lo so per mia esperienza personale, è proibito rappresentare la svastica anche in un soldatino. Non possono essere venduti soldatini per bambini che rappresentano, per i collezionisti, divise naziste con la svastica. Perché? Perché in quello c'è una necessaria e imperiosa rimozione, necessaria perché significa molto di più e qualcosa di molto profondo. Ma riguardo al fascismo in Italia, che si vendono busti del Duce in tutte le bancarelle, nessuno viene arrestato, i nostalgici hanno tutti i loro shopping possibile e immaginabile, pieno di siti si vendono bandiere, panoplie, rifacimenti degli strumenti del regime, ma manca la reale e concreta analisi storica. Sì, perché mentre questa sorta di souvenir fascista è in qualche maniera visto come un momento di folklore storico, fare una rappresentazione dello sviluppo del fascismo dagli anni 20 agli anni 40 significa comunque fare i conti con il passato, e un passato molto più critico e molto più complesso di quello che in genere si è pensato. 800 24 0024, vorremmo sentire dagli ascoltatori qual è il loro punto di vista rispetto a questa posizione, che sarà analizzata. Noi vi spiegheremo e vi diremo in realtà come sarebbe possibile creare un luogo in cui storicamente venga trattato, sviscerato, analizzato, anche per elaborarne meglio gli effetti negativi, anche per evitare i rigurgiti nostalgici, come viene detto, anche per prendere come qualsiasi pezzo della storia una posizione scientifica e storica nei confronti in un momento. 800 24 0024, andiamo avanti. Camerati adunata! Camerati adunata! Adunata! La rivoluzione fascista ha vinto! Andiamo a Roma! Ogni squadra al suo posto! Presto sul camion, ai vostri posti! Raccogliete tutto! Armi ed equipaggiamento! Forze, incolonnatevi! Fulminante a posto! Fulminante! Se noi vogliamo vedere rappresentato il fascismo, lo vediamo attraverso i film, attraverso le letture satiriche, attraverso le ricostruzioni iperboliche, ma non attraverso la storia. Però la storia ci permetterebbe di avere, e qui andiamo al punto di questa trasmissione, dei reperti reali, concreti. Perché? Perché il fascismo, naturalmente, che faceva della propaganda e della esposizione dei propri punti forti, di punti di forza, una sua tecnica molto particolare, molto all'avanguardia, nel decennale della marcia su Roma organizzò una fantastica, enorme, macroscopica mostra della rivoluzione fascista. Che fine ha fatto questa mostra della rivoluzione fascista? Dimmi un po' la storia, Marco Pizzi. Allora, questa mostra della rivoluzione fascista rappresentò un vero e proprio evento espositivo e anche artistico nell'Italia degli anni 30. Successivamente questa mostra, dopo l'impresa di Salò, è andata a finire dispersa in varie parti. La parte più consistente è conservata all'interno dell'Archivio Centrale dello Stato, ma la cosa interessante da mettere in luce è che non si tratta di una fonte o di una mostra archivistica, cioè non sono solo documenti. Sono oggetti. Sono oggetti. Sono oggetti e testimonianze di tutta la storia che il fascismo voleva rappresentare. Quindi dalla collezione delle bandiere rosse, delle associazioni operaie, ai cimeli di Garibaldi, Mazzini e del Risorgimento. Quindi per questo te interessa soprattutto, perché ci sono delle parti cospicue di documenti inediti e originali del Risorgimento, che il fascismo fece suo e quindi espose nella grande mostra dell'apoteosi del fascismo. Sì, tant'è che in genere è stato detto che esiste un Risorgimento in camicia nera. Io conservo nel mio museo una collezione di documenti e una gran parte di questi documenti vennero donati proprio da Benito Mussolini, che era anche un collezionista di cimeli risorgimentali. Ma lui capì che l'archivio era non solo documenti, ma tutto: cimeli, oggetti, testimonianze, cioè una visione molto moderna della conservazione. Allora, questa mostra fantastica che si svolse a Roma nel decennale, il primo decennale, poi nel 5 anni dopo e altri 5 anni dopo della marcia su Roma, fu fatta a Roma al Palazzo delle Esposizioni. Fu costruita una scenografia fantastica, una grande scatola rossa con dei fasci altri 30 metri di alluminio, e dentro a ornarla, a costruirla, fu chiamato il fiorfiore dell'architettura, dell'arte, dell'espressività del tempo, tanto che fu una cosa fantastica. Riassumo velocemente, poi Pizzo e altre persone mi aiuteranno. A un certo punto cadde il fascismo, questa mostra fu chiusa in delle casse, in 24 casse, fu mandata alla Repubblica del Nord, a Salò, fu messa in un museo, anche lì fu tenuta in una cantina, nessuno ebbe tempo di aprirla. Nel 45, quando gli alleati fecero una commissione per rimettere insieme quello che erano appunto i documenti del passato in Italia, qualcuno trovò queste casse, le rimandarono a Roma, le classificarono, le analizzarono, poi le sigillarono e da allora rimangono chiuse. Cosa c'è secondo te in queste casse? Allora, c'è non solo parte della mostra della rivoluzione fascista, ma anche una serie di cimeli e di oggetti che sarebbe assolutamente importante vedere. All'interno della Biblioteca Nazionale di Roma esiste per esempio un fondo che proviene dalla mostra della rivoluzione fascista di codici miniati che vennero fatte da semplici disegnatori, da città e donate alla Mussolini e rappresentano al meglio un momento della storia della miniatura italiana. Sono dei grandissimi volumi che devo dire una professoressa universitaria, Emilia Talamo, ha avuto il merito di riscoprire. Non si erano mai visti, non si sapeva che esistevano, perché all'interno della biblioteca erano messi in una sorta di miscellanea di oggetti vari. 800240024. Cominciamo a sentire qualche ascoltatore. Il tema è proprio questo. Sarebbe forse ora, ma proprio per prendere le distanze, per capire meglio quel movimento, che venissero fuori dalle casse nascoste che sono, mi sembra, all'archivio centrale di Stato, e fra un po' sentiremo il direttore, e capire in realtà cosa c'era realmente, quali sono i documenti, quali sono gli oggetti, quali sono anche le rappresentazioni importanti dal punto di vista artistico e storico che c'erano nella fantastica mostra, fantastica in quanto enorme, ipercostruita. Ci andarono tutti gli italiani, le Ferrovie dello Stato facevano lo sconto del 70%, chi non aveva i soldi ci andò in bicicletta, ci andarono 4 milioni di italiani soltanto nella prima edizione. Sembra la mostra più visitata nella storia del nostro paese. È una delle mostre più visitate della storia d'Italia, ma perché era una mostra collettiva della storia nazionale. Oddio, molti ci saranno anche andati non tanto per piacere, ma perché forse era strategicamente utile andarci. Non pensiamo che ci fosse stato questo afflato, però ci andavano. Era il grande evento, era il grande evento. Alessandra, buongiorno. Sì, buongiorno. Io volevo fare un'osservazione riguardo a questo problema appunto di ciò che non viene esposto, di cui non si parla. Io credo che, come peraltro ha detto lei prima, ci sia un grosso problema di differenza tra l'atteggiamento della Germania, che anche io conosco bene per averci vissuto alcuni anni, e quello dell'Italia. Cioè, in buona sostanza, quello che è successo in Italia dopo la fine della guerra è che non si è fatto quasi per nulla i conti con il passato. Cioè, dopo l'8 settembre del 43 c'è stato l'armistizio, a quel punto l'Italia, diciamo, è passata da un'altra parte. Per fortuna, vorrei dire lecitamente, certo non è che la cosa mi renda infelice, però dopo la fine della guerra non si è ritenuto di dover ragionare né sulle colpe degli italiani, che sono state molte anche a livello di crimini di guerra, cosa completamente scomparsa, né tantomeno si è voluto pensare che tutto sommato 20 anni di fascismo evidentemente non erano esistiti soltanto perché c'era una persona brutta e cattiva, ma che forse probabilmente c'era anche una forma di consenso in qualche modo. Ora naturalmente io la sto mettendo in modo... No, ma è molto chiaro quello che lei dice. Ecco, però... Cioè, ma lei non trova che sia il momento, che ormai il tempo è passato, sì, tutti coloro personalmente coinvolti in questa rimozione o sono molto anziani o non ci sono più, quindi le nuove generazioni... Mi sembra, cioè, quello che voglio dire è che non serve a nulla rimuovere, perché a furia di rimuovere, l'Italia è un paese che, come ho detto prima, non ha mai fatto veramente i conti con il passato. Questo lo si può vedere per esempio con la questione dei processi fatti con 60 anni di ritardo nei confronti dei criminali nazifascisti, quindi non soltanto nazisti, perché erano anche fascisti e quindi c'erano anche italiani, certo, per le stragi che ebbero luogo soprattutto in Toscana, in Emilia Romagna, ma non solo, dopo l'8 settembre del 43. Cioè l'idea è che c'erano solo gli altri che erano cattivi, noi eravamo buoni perché c'erano i partigiani. Anche questa appunto una lettura secondo me molto... Ma secondo me, Alessandra, non è venuto il momento, visto... Io non so quanti anni abbia lei, ecco, più o meno siamo della stessa generazione, siamo della generazione che in casa hanno sentito parlare con veemenza di questi fatti, sia che i genitori fossero dalla parte dei liberatori, sia che i genitori fossero dalla parte degli sconfitti, comunque era un argomento caldo in famiglia, non elaborato, ma ormai i nostri genitori sono tutti belli che andati, o perlomeno non gli interessa più. Noi abbiamo personalmente elaborato, avendo vissuto tutta la fase del dopoguerra, del boom, degli anni di piombo, del socialismo, del berlusconismo, insomma ne è passato di tempo. Non sarebbe tempo, io mi sento tranquillo nel dirlo e molto sereno, che la storia si riprendesse in mano questi oggetti, queste forme rappresentative, e ci desse una possibilità di studiarlo da un punto di vista meno toccato dall'emotività. No, ma io sono perfettamente d'accordo con lei, cioè anzi proprio quello che sto dicendo, cioè mi sembra proprio che sia sbagliato questo timore, no? Per cui dire, se faccio una mostra sugli oggetti del fascismo, in automatico chissà avremo folle di reduci piangenti. Ma non ci sono più, ormai non ci sono più, sono estinti. Ma forse ci saranno ancora, questo non lo so, insomma, forse qualcuno ci sarà, forse ci saranno i figli, ma appunto non è rimuovendo rimuovendo la storia, non è rimuovendo ciò che è accaduto e facendo finta che in qualche modo non sia accaduto, che lo si capisce, e soprattutto non si fa neanche un piacere alle generazioni future, perché di fatto le generazioni attuali finiscono per conoscere molto poco di questi anni, hanno solo così una sorta di infarinatura molto, molto parziale, e non si rendono conto anche di quali sono stati i meccanismi. Sì, a me impressiona portato. Il fatto che esistano casse e casse di oggetti storicamente interessanti chiusi, sigillati in un sotterraneo, nessuno li vuole aprire, nessuno ha il coraggio di aprirli, in una città come Roma, in cui c'è un sindaco che comunque ha delle radici diciamo di attenzione politica neofascista, che poi ha rinnegato, che poi ha rivisto, che poi ha rivisitato e tutto. Forse proprio la paura di essere coinvolti ancora una volta, c'è una grande rimozione profonda in questo senso. Sentiamo Giuseppe. Buongiorno Nicoletti. Sì. Buongiorno, intanto saluto lei, saluto il suo ospite, e vuol dire che tanto che condivido al 100% quello che ha detto l'interlocutore precedente, e poi volevo brevissimamente segnalare che esiste un museo molto interessante in provincia di Latina, a Borgo Faiti, che si chiama Pian delle Orme, e siccome è dedicato in buona parte alla bonifica dell'Agro Pontino, di fatto è un museo che riguarda profondamente il fascismo. È una parte però, quello riguarda le bonifiche. È una parte però, la dice lunga su un'impostazione. E devo dire che il rischio che vedo è che uno si faccia delle opinioni positive. Però positive o negative che sia, vede, ancora una volta non rimuoviamo per paura che qualcuno possa farsi delle idee o possa ritornare e riaccendersi la fiamma, ma è un pensiero accettabile alla luce dei tempi che stiamo vivendo tenere nascoste delle cose per paura che la gente possa esserne contaminata? Assolutamente, bisogna distinguere il buono dal cattivo. In un momento in cui poi se lei accende un internet e fa una ricerca, in internet trova quasi tutto, perché certo. Poi le foto sono state messe in rete, certo. Le immagini sono state messe in rete, quelli veramente a volte sono i siti dei nostalgici. In realtà una presa di posizione ufficiale, nazionale, nei confronti di un'analisi storica, secondo me sarebbe auspicabile. Marco Pizzo. Il problema che ha messo in luce l'ascoltatore è proprio questo, cioè mostrare sembra automaticamente dare un giudizio positivo o negativo a un evento storico. Ma anche nascondere e dare un giudizio. Certo, ma mostrare significa invece accendere un dibattito storiografico. Adesso abbiamo passato il 150° anniversario, in cui ci sono stati dai neo-borbonici ai neo-briganti del Sud Italia, vari atteggiamenti. Ma è stato interessantissimo parlare con loro, abbiamo fatto trasmissioni con te. È stato un punto di vista interessantissimo. Il libro di aprile sull'antirisorgimento del Sud è un bestseller, l'hanno venduto tantissime, l'ha letto tantissime persone. È proprio che oggi è cambiata l'ottica. Mostrare significa non aver più paura e anzi non aver paura di aprire un dibattito storiografico. Quand on s'est connu, quand on s'est reconnu, pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue, quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer? Melog 2.0. Allora riassumiamo, io l'acchiappo, una bella presa di collo, l'immobilizzo e tu gli butti in gola l'olio di ricino, d'accordo? Ma se quello lì si difende, si disvincola, comincia a tirare calci. Gli diamo la botta in testa, no? Sì, ma se gli diamo la botta in testa, quello lì sviene. Allora come fa a bere l'olio di ricino? È una legge di natura. Già, perché se gli acchiappi la testa, no? Siete degli irresponsabili. Ma non è tutta colpa vostra. Quando il fanatismo prende il posto della ragione, la strada è piena di inganni. E l'inganno maggiore è proprio questo, che uno crede di amare la propria patria soltanto se questa patria è un paese dove tutti la pensano allo stesso suo modo. Ed è così che finisce per amare una patria di schiavi e non si accorge di essere uno schiavo egli stesso. Ecco fatto. Ora devo andare, sapete dove? Andateci anche voi e il vostro Benito Mussolini. Marta, accompagna questi gentiluomini fuori. La bottiglia, il bastone. Erano andati due fascisti da prim'ora a dare l'olio di ricino a un anziano intellettuale che a loro dà una lezione di vita e di etica. cinema secondo me ha già elaborato abbastanza questo periodo, anche facendolo con l'ironia, con lo sberleffo. Il ridere molte volte è di gran lunga peggiore per stendere un velo sul ricordo che qualsiasi veemente presa di posizione avversa. Questa mattina stiamo parlando, alla vigilia dell'anniversario della marcia su Roma, sul fatto che storicamente sarebbe ora che il fascismo entri nei musei, si cominci a parlarne, senza paura, senza timore di essere considerati apologeti, anzi è il gesto più antitetico a ogni apologia, metterlo sul tavolo anatomico della storia. Abbiamo in studio Marco Pizzo, direttore del Museo Centrale Risorgimento a Roma, che vorrebbe mettere le mani nelle 24 casse della mostra commemorativa della Marcia su Roma, che Mussolini nel decennale della Marcia su Roma inaugurò. Fu una mostra fantastica, frequentata da milioni di italiani, che con la fine della guerra e con la fine del fascismo venne chiusa e sigillata dentro delle casse. In quelle casse ci sono anche dei tesori dal punto di vista artistico, che a questa mostra ha contribuito artisti come Sironi, Prampolini, Dottori, Libera, Terragni. Giuseppe Terragni inventò una forma espressiva che era il collage fascista, delle foto enormi scomposte, messe attraverso tecniche che oggi soltanto con Photoshop nella videoarte troviamo, devono servire allo stesso tempo a dare una rappresentazione dinamica degli eventi storici dello squadrismo, del fascismo, tutte cose detestabili ma artisticamente interessanti per come venivano rese, e capire anche soprattutto il meccanismo psicologico, la tecnica espositiva, da cui ci sarebbe molto da capire e da comprendere anche nelle dinamiche, nei meccanismi di partecipazione del regime. Noi abbiamo però al telefono, oltre a Marco Pizzo qui in studio, il direttore dell'Archivio Centrale dello Stato, Agostino Attanasio. Buongiorno. Buongiorno a voi. Lei è il custode delle famose casse dove è sigillata tutta la mostra del fascismo. Diciamo che le cose però non sono esattamente in questo. Allora ci raggiunga esattamente come stanno le cose. Perché le casse non sono sigillate. Chiuse. Le casse sono state inventariate. Noi abbiamo a stampa un inventario fatto ben 20 anni fa. Sì, sì, questo è stato ammirevole questo lavoro. Sappiamo esattamente. Però nessuno le può vedere le cose che ci stanno dentro. Distinguiamo i livelli, perché poi per ragionare in modo puntuale bisogna distinguere i livelli. Uno, naturalmente io condivido e sono assolutamente favorevole ad un'attività di approccio, di approfondimento di tutto quello che è stato il fascismo, figuriamoci, l'Archivio Centrale dello Stato possiamo dire che è nato esattamente con queste finalità. Le prime carte, i primi fondi che sono stati acquisiti dall'Archivio Centrale dello Stato sono proprio legati alla fine del fascismo, insomma. Quindi su questo non ci sono dubbi. Naturalmente è stata fatta anche negli anni passati una attività che è quella tipica, specifica dell'Archivio Centrale dello Stato, di inventariazione di queste carte. Adesso si tratta di andare avanti, ossia noi abbiamo un quadro completo della situazione archivistica che possediamo, si tratta poi di ripercorrere anche tutti gli itinerari di queste carte che hanno subito nel corso degli eventi del 43, 46, 47, probabilmente troveremo anche faremo anche delle scoperte nuove, oltre al materiale librario per esempio conservato in nazionale, ce n'è anche altro conservato alla Biblioteca di Storia Moderna e Contemporanea di Roma, quindi bisogna ripercorrere anche queste fila, ma poi soprattutto bisogna mettersi all'opera per realizzare un'esposizione. Che è un terzo livello, che effettivamente finora è mancato e su cui io sono assolutamente d'accordo. Peraltro, aggiungo, noi abbiamo avviato proprio a settembre, abbiamo inaugurato una mostra sulla macchina dello Stato. La macchina dello Stato, sì. E rimarrà aperta fino al 16 marzo 2012, quindi invito, una mostra molto bella, e l'abbiamo fatta anche in collaborazione con l'Istituto della Storia del Risorgimento e con Marco Pizzo. Ma lì poi, rivedendo e ripercorrendo questa storia italiana con un occhio anche un po' lontano, non c'è dubbio che siano emersi tutta una serie di temi e di nodi su cui, voglio dire, un approfondimento relativo al fascismo sarebbe assolutamente importante. Non trova lei, scusi direttore, che in un museo di storia nazionale deve essere comunque, non ci può essere un buco di 20 anni e si fa finta in quegli anni non c'è stato nulla, o sbaglio, non lo so, no, mi creda, il mio intento è antitetico ad ogni apologia. Però è che avrei curiosità anch'io di vedere soltanto a distinguere il diverso livello dell'attività espositiva e dell'attività di ricerca storica, ossia le carte della mostra della rivoluzione fascista sono disponibili per tutti gli studiosi. Chi viene all'Archivio Centrale dello Stato consulta l'inventario a stampa, peraltro. Sì, io ce l'ho, pensi, me lo sono procurato. Esatto, l'inventario a stampa, pubblicato nel 1990, chiede i pezzi, come si chiamano nel gergo archivistico, li riceve in sala di studio e li può studiare. Sì, però lei mi insegna che il senso di una mostra è un'altra cosa. Dà un po' l'impressione, mi faccio l'esempio, io finalmente da qualche anno possiamo vedere Villa Torlonia, che è un luogo importante, interessante, ma per anni è stata chiusa e sigillata perché era la casa del Duce, quindi non ci si poteva nemmeno avvicinare. Adesso che è stata aperta si è visto che ancora di più si capisce meglio, si comprende meglio e se vuole si prendono anche meglio le distanze. Marco Pizzo. Anche in questo caso pochi sanno che a Villa Torlonia c'era la sede della cinematografia educativa, c'erano proprio gli archivi della cinematografia perché educativa. Il Duce li voleva sotto casa. Sotto poi casa, e sono degli archivi, erano sperimentali, cioè il cinema scientifico nasce lì. E ora questi filmati scientifici un po' stanno nell'archivio dell'Istituto Luce, l'altri sono in Francia, non li possediamo più. A questo proposito io mi voglio allacciare a quello che diceva Attanasio poco fa, cioè l'archivio centrale c'ha una mostra che è la macchina dello Stato, in cui finalmente si espone parte di questo materiale anche proveniente dalla mostra rivoluzione fascista, ed è singolare che questa attività espositiva venga dagli archivi, cioè per la prima volta viene mostrato chi detiene gli strumenti documentari della storia, ma è paradossale che in Italia non esista un museo di storia nazionale. Sentiamo qualche ascoltatore. Enzo, buongiorno. Buongiorno, sono Enzo Greco e complimenti insomma per tutta la vostra disponibilità nell'affrontare questi argomenti. Io faccio anche il sindaco di un piccolo paese della provincia di Varese. Abbassi la radio, scusi Enzo, c'ha la radio accesa, abbassi un attimo. La spengo sì, completamente. Sì, tanto lei ci sente lo stesso. Sì, ecco, perfetto. Così è meglio. E siccome sono in auto, come sempre avviene quando si ascolta la radio durante questi orari. Il discorso è questo, io credo, e ripeto, non ho tessere di partito per intenderci, quindi come dire, non sono schierato da nessuna parte, dico soltanto che credo ci sia ancora forse una paura nel rendere pubblico, perché il museo rispetto all'archivio come dire diffonde conoscenza, l'archivio è un po' riservato, certo, agli esperti, sapersi muovere in un archivio cioè, ci vuole esperienza, capacità e studio, altrimenti uno non sa da che parte muoversi. Poi chi va in un museo ha strumenti di lettura soprattutto emotivi, chi ha nell'archivio ha strumenti scientifici, non emotivi. Esattamente, e quindi sicuramente io credo che sarebbe doveroso, bellissimo e interessante per tutto diciamo il paese conoscere meglio, come dire, questo buco che in realtà si evita, no? Lo si scantona, lo si scansa, lo si evita anche, come dire, scolasticamente, quando in realtà, come tutte le cose, tutte le medaglie, c'è una rovescia, è un buono, diciamo, e quindi potrebbe aiutare a separare proprio in maniera un po' più, come dire, attenta e autonoma il bene dal male, perché sicuramente lei fa già un passo avanti rispetto a quello che dicevo io. Sì, può essere anche questo. Beh, per qualcuno, a me non interessa il bene, no, non è un giudizio, è semplicemente la necessità che in un momento come questo, in cui la condivisione dei saperi è la chiave essenziale della nostra civiltà, non può esserci un sapere nascosto, solo questo. Giovanna, buongiorno. Buongiorno dottor Nicoletti. Eccomi. Io dico che è presto, verrà un momento che si apriranno queste casse eccetera, è presto, perché noi italiani abbiamo troppo da dimenticare, vogliamo dimenticare, e se uno vuole dimenticare non va a vedere. Quasi 70 anni non bastano. No, non bastano perché un suo punto di vista no, non bastano perché abbiamo, lei dice il ventennio, ma è stato un ventennio colmo di avvenimenti. All'inizio sembravamo che dovevamo diventare i padroni del mondo, poi siamo caduti nel baratro e poi il disastro della guerra civile. Io sono nata a Milano, vivo a Milano, abbiamo visto cose tremende a Milano. per cui abbiamo troppe cose da dimenticare, poi... ma perché, però dirò, scusa, una cosa, dimenticare non è una bella parola dal punto di vista storico, le cose ma vanno ricordate. Abbiamo avuto torturati in casa. Ho capito, ma perché tenerlo nascosto, tenerlo come fosse un ma segreto di famiglia? Ma perché certe cose dolorose, dottor Nicoletti, si mettono in un canto, in un cantone della memoria. Ma qual è l'esempio e l'aspetto positivo della storia se certe cose vengono nascoste? Ma non è un aspetto positivo, perché io, per esempio, ai miei figli e ai miei nipoti, ogni tanto dico, io vi raddrizzerei la schiena come una volta ce la raddrizzavano a noi, perché in effetti il regime ci raddrizzava. Sì, ma la storia è un'altra cosa, questa è un suo uso familiare. La storia, no, ma tanto perché anche i nostri giovani devono sapere qualcosa, non è che i film sono tutti... Sì, ma finché rimangono nelle casse a disposizione soltanto dei professori, i giovani non hanno idee magari mediate male. Ho capito, ma queste casse, per esempio, chi dà l'ordine di aprirle o di tenerle chiuse? Bisogna vedere chi è che dà quest'ordine. Marco Pizzo. Allora, le casse di per sé sono aperte perché gli studiosi le possono consultare. Il problema non è questo. Il problema è come affrontare questi rimossi storiografici. È l'allestimento, è fare una cosa che sia didattica e divulgativa. In Italia non si divulga certi periodi della storia, non si divulga il fascismo, non c'è nessun museo sul terrorismo. In altri paesi ce l'hanno, tutti gli altri paesi europei, noi fascismo, terrorismo non sono esistiti, non esiste, non se ne parla, è come se non fossero successi. Ti rendi conto, Marco, noi facendo soltanto questa trasmissione e prendendo soltanto un brandello dell'esperienza di questa signora, stiamo divulgando qualcosa che in questo momento magari era giusto divulgare o che non era la conoscenza di tutti. La signora ha dato un brandello appena accennato di sua storia familiare, di torture in famiglia e tutto. La signora è un reperto storico, la signora dovrebbe entrare in un museo e raccontare quello che ha visto, anche perché la signora, come tutti noi, non è eterna. Quando ci sarà più la signora, di quella storia non saprà più nulla. Quand on s'est connu, quand on s'est reconnu, pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue, quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer? Melog 2.0. Ce l'hanno fatta. Non è mica detto, sai. Figurati se danno in mano il governo quella gente lì, ma non può mica durare. Vedrai che le cose cambiano, guarda, da così a così. Te lo dico io. Ma dimmelo, i re l'hanno cacciato. Ma che cacciato? È stato lui che li ha fatti entrare. Così anche la Repubblica, ti saluto Carolina. Però un momento, vuol dire che deve ancora parlare. E certo, l'ultima parola è su. E quando parla, so capo. Ammiraglio, spassionatamente, cosa ne pensa di questi fascisti? Crede che mettiamo il paese in buone mani? Mi dica fuori dai denti qual è il suo parere, perché siamo ancora in tempo a sbatterli fuori, eh? Spassionatamente, maestà, mi sembra gente seria. Ma sì, proviamoli per qualche mese. Ecco perché la storia non sia soltanto affidata alla facezia, al film, al ricordo, perché probabilmente chi va a cercare Marcia su Roma su YouTube trova i filmatini divertentissimi con Gassman e con Tognazzi, oppure trova i siti dei nostalgici, oppure trova i materiali che probabilmente non sono esposti ma in rete ci sono. Abbiamo qualche ascoltatore riguardo al tema che stiamo toccando questa mattina: non sarebbe ora di fare un grande museo di storia nazionale in cui il ventennio del fascismo e tutti i suoi addentellati precedenti e postumi siano storicamente, scientificamente, serenamente trattati? Giancarlo, buongiorno. Buongiorno, dottor Nicoletti, complimenti per la trasmissione che purtroppo ascolto quasi sempre solo la sera come replica. Sempre argomenti molto interessanti. Niente, io faccio un mestiere che sono sempre in casa delle persone, perché faccio l'imbianchino, sono sempre in casa delle persone che hanno delle sorte di musei in casa, perché alla fine si hanno sempre dei quadri del 500, del 600, mobili oggettivati. Beati loro! Quasi nessuno ha mai degli oggetti che riguardano il periodo del fascismo, intesi come oggetti appunto d'arredo o comunque come reperto storico. Tendenzialmente mi accorgo che li hanno ma sono nascosti, e recentemente ho recuperato proprio in una soffitta di cui sono andato a imbiancare in una scala diverso materiale del periodo del fascismo, libri, fotografie, giornali, e io sono sempre abbastanza curioso, che mi piace comunque vedere cosa pensavano, cosa scrivevano quei tempi. Qui c'è un libro molto curioso che si chiama L'Alza Bandiera. E nell'apertura della pagina, fa sorridere un po', letto ai tempi d'oggi, c'è scritto: nel nome di Dio e dell'Italia giuro di eseguire senza discutere gli ordini del Duce, di servire con tutte le mie forze, se necessario, con il mio sangue, sì, vabbè, quello, questa, della rivoluzione fascista. Questa era la cifra retorica del regime. Anch'io avevo a casa i libri di scuola dei miei genitori, erano tutti così. Però di questi libri non è che se ne ha più molta traccia. Anche farli vedere, far capire cosa insegnavano nelle scuole, secondo me era interessante. Ugo, no scusi, Leo, buongiorno. Buongiorno, signor Nicoletti. Senta, io ho suonato la marcia trionfale della Ida nel 1938 davanti a Mussolini e Hitler. Quanti anni ha lei? 83. Ah, cosa faceva? L'orchestrale? Sì, io studiavo musica a Via della Palombella a Roma. Due volte la settimana c'era l'orario di musica, un'ora di musica, e poi il sabato si usciva suonando la tromba per le vie di Roma col mazziere intorno. Era il sabato fascista? Sì, il sabato fascista, sì. Io suonavo anche l'attente quando Mussolini usciva dalla garitta, dal portone, noi stavamo in garitta. Ma dove? A Palazzo Venezia? Palazzo Venezia, sì, sì. Ah, lei stava sotto il balcone storico? Sì, sì. E cosa ha visto di storicamente rilevante la Piazza Venezia? Veniva questa macchina nera decappottabile con i motociclisti, saliva il Duce e andava via. Io una volta sono stato anche invitato dalla Petacci su a prendermi, mi diede qualche biscotto, qualche cosa, ma eravamo in due. Cioè l'è stato un tête-à-tête con la Petacci? Sì, sì. E che impressione le faceva? Ma nulla, a quel tempo non si poteva pensare che era l'amante, no, io pensavo che era una signora, come il Duce per noi lo consideravamo. Però lo sapevate? Ma no, veramente no, perché... E che stava a fare lì una donna lì col Duce? Ma sì, ma io avevo 9 anni, 10 anni, non potevo pensare che era l'amante. E le ha dato dei biscottini? Sì, caramelle, anche all'altro, eravamo in due. Fumo scelti dal comandante Viola di Monteverde Vecchio, perché diciamo eravamo i più belli e allora fumo scelto per mettersi in prima fila. Eravate selezionati razzialmente, sì, razza italica. Sì. Ah, infatti quando andammo su a parlare con Mussolini disse: questa è la pura razza ariana, e guardò me che ero biondissimo come uno svedese. Ah, disse così il Duce a lei: questo è di pura razza ariana? Sì. E lei invece dove era nato? A Roma. Ah, perfetto. Sì, a Roma. No, e l'altro invece era nato a Napoli. Però era biondo. Ma nero, scuro, lì, ce l'avevamo fatto apposta. Vabbè, come le vallette di Sanremo, uno biondo e uno nero. Grazie Leo, vedi Marco Pizzo, però Leo ha una storia da raccontare. È un pezzettino indifferente, io sono appassionato di queste cose. Tanti pezzi indifferenti, di testimonianza personale, individuale, raccontano la storia. Adesso devo dire che c'è uno strumento, e ci sarà breve per raccontare queste storie. Noi abbiamo fatto delle mostre in giro per l'Italia, anche insieme a te, Gioventù Ribelle. Adesso c'è un portale in cui c'è una sezione, Radici, organizzato da noi e dal Ministro della Gioventù, Giorgia Meloni. E che è possibile fare? Raccogliere le radici personali che fanno parte della storia collettiva. Ecco, questo è il contributo individuale, però i documenti che ci sono, secondo me sarebbe ora anche un pochino tirarli fuori. Gaetano, cosa ne pensa? Chiudiamo con lui. Eccomi qua, grazie Nicoletti, gentilissimo. Ne penso che è assolutamente necessario fare una mostra, aprire una mostra di questo genere. E guardi, io sono forlivese, vivo a Riccione da un po' di tempo, lì prima ho citato Villa Torlonia, quindi lasciamo stare. A Forlì, come in tanti altri posti, è pieno di tracce del ventennio, che poi le vogliamo non guardare, le vogliamo dimenticare perché il ventennio fa paura, ma io passo in Viale della Libertà a Forlì e ci sono tanti esempi di razionalismo del ventennio che di più non sanno che cos'è e può avere anche qualcosa di interessante. L'analisi storica significa prenderli, raccoglierli, dargli un contesto e faccio una riflessione sopra. Peccato non può parlare Silvano, che ha comprato un appartamento e dicono che abbia vissuto il Duce, ma se riprenderemo questo argomento lo riparleremo. Grazie Agostino Attanasio, direttore Archivio Centrale dello Stato, grazie Marco Pizzo, direttore Museo Centrale Risorgimento a Roma. A domani. On a continué à tourner, tous les deux enlacés, tous les deux enlacés.